tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È proprio vero che nessuno è perfetto. Vabbè, dell'arbitro norvegese non parliamo nemmeno, visto se la mettiamo sul piano della perfezione, ma certamente non è stato perfetto il Barcellona, che è passato in quattro giorni da una partita memorabile, storica addirittura, una partita pasticciata con giocatori fuori ruolo, con altri fuori fase, e mai come ieri sera si è capito, secondo me, quanto poco nel calcio conti il possesso palla, se è fine a se stesso, se è sterile. Pensate che il dato statistico alla fine segnala che il Barcellona ha avuto un possesso palla del 71%, significa che su 100 minuti, e se ne sono giocati 100 alla fine, perché mi pare 3 di recupero nel primo tempo e 6-7 nel secondo, su 100 minuti giocati il Barcellona ha avuto la palla per 71 e soltanto per 29 il Chelsea, però in 71 minuti il Barcellona ha tirato in porta una volta sola, certo in maniera letale al 94esimo minuto. Ma nonostante una grande partita, una grande prestazione, una grande impostazione tattica che ha ricalcato quella dell'andata, migliorandola, nemmeno il Chelsea è stato perfetto, perché avrebbe certamente meritato, anzi strameritato, di vincere ed andare in finale. Ma io credo sia stata, se non decisiva in negativo, qualcosa di molto simile la mossa di Hiddink, che è maestro di controgioco, ma forse lo è un po' meno quando il gioco si tratta di farlo. Quando al 27esimo del secondo tempo Drogba è uscito per un infortunio, perché non era più in grado di continuare, poi ha ritrovato energie nel finale con l'arbitro, ma quello è un altro capitolo. Beh, in quel momento credo che in 11 contro 10, al posto di un attaccante trascinatore come Drogba, inserire un terzino come Belletti sia equivalga a chiamarsela la sfiga, se si può chiamarla così in orari protetti. E alla fine ha colpito, perché come è noto la fortuna è cieca, ma quella ci vede benissimo. È stata una sfida della forza contro la tecnica, sembrava che la forza l'avesse avuta vinta, e invece alla fine è stato proprio un lampo combinato di tecnica, uno dei pochissimi di ieri sera, di questi lampi, perché l'assist comunque è di Messi col piede destro, quello con cui scende a fatica dal letto, e il destro al limite di Iniesta, che era probabilmente al 25esimo chilometro della sua serata, ha colpito in maniera chirurgica. Bentornato a Nicola Roggero. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Nicola, io oggi pensavo di vabbè, certo che partiamo da Stamford Bridge di ieri sera, e poi pensavo di chiedere a te nella prima parte e poi a Fabio Tavelli nel secondo un ritratto delle due finaliste, a te per competenza territoriale e affettiva il Manchester United, e poi più tardi a Fabio il Barcellona, perché questa è la finale, era una finale annunciata. In Inghilterra in molti hanno strepitato, a cominciare da Hiddink, che è stata una finale combinata. Il sospetto c'è, nel senso che il sospetto, io non voglio crederlo, ma che una cosa del genere possa essere ipotizzata, direi che ci può stare. Sì, diciamo che era forse la finale più gradita dall'UEFA, persino le palline del sorteggio avevano rispettato questo gradimento, mandando Manchester e Barcellona ai lati opposti del tabellone in modo che non si eliminassero. Anch'io non credo in nessun complotto volontario, anche perché se questo complotto ci fosse stato, certamente Overmars non avrebbe cacciato Abidal a 20 minuti dalla fine, lasciando il Barcellona in 10 e in quel momento ragionevolmente fuori dalla Champions League. Io sono d'accordo con te, il mio parere ci ha messo il suo anche Hiddink, con quella sostituzione che io non ho compreso. È vero che Drogba era infortunato, è anche vero che il Chelsea in panchina aveva Kalou, che è un ala ivoriano, un uomo molto veloce, quindi come tale adattissimo a sfruttare quel contropiede che... Perfetto, perché i 20 minuti, certo, perché i 20 minuti finali era l'uomo suo proprio. Esatto, perché c'era non soltanto il Barcellona sbilanciato, ma soprattutto era un Barcellona in 10, già senza Puyol e senza Marquez, quindi senza i suoi due difensori centrali titolari, quindi in forte disagio. È possibile che con Kalou le cose potevano andare di Nicola, che ad ogni contrattacco del Chelsea, poi molto più rado di quanto non sembri, perché ripeto, 71% di possesso palla vuol dire che su 100 minuti il Chelsea ha giocato per 29 in fase di possesso. Ma ad ogni contrattacco del Chelsea, la difesa del Barça, ma barcollava in una maniera impressionante. impressionante. Ah, sì, sì, sì, no, veramente. Quindi sembrava... era quello il colpo da fare, era la ricerca del 2-0, non altro. Esatto, infatti prima di prenderla con l'arbitro, che certamente le sue colpe, il Chelsea dovrebbe prendersela a cominciare da Drogba, che ha fallito in meno di 3 occasioni solo davanti al portiere, poi ha sbagliato anche Siena. Insomma, il Chelsea avrebbe avuto veramente tutte le chance per chiudere la partita, indipendentemente dall'arbitraggio, che certamente è stato sfortunato e certamente ha penalizzato in maniera notevole il Chelsea. Credo che da questo si dovrebbe partire. A me personalmente non sono piaciute le dichiarazioni di Hiddink, che per solito uno molto posato, e non è piaciuta la reazione di Drogba, perché al di là della delusione giusta, comprensibile, del fatto uno possa anche sentirsi defraudato, io credo che un grande campione sia pagato tanto anche per tenere i nervi a posto, pur in una delusione cocente, e quello che si è visto ieri sera alla fine non è stato un bel vedere, non è un bel esempio, specialmente da quel calcio inglese che invece ci ha dato degli esempi migliori nel comportamento in campo. Ieri, a mio parere, il Chelsea ha assunto alla fine una dimensione un po' provinciale, che forse dovrebbe fare anche un po' italiana, direi, come genere. Comunque la differenza tra l'Italia e l'Inghilterra, che ieri sera per qualche momento a fine partita si è annullata dal punto di vista della civiltà sportiva, è subito stata ristabilita dalla stampa. Non a caso noi nella recente classifica della libertà di stampa e della qualità di stampa, diciamo, in rapporto alla libertà e all'indipendenza soprattutto, siamo 73esimi al mondo. E l'Inghilterra siamo un pochino dietro al Benin, ho appreso, esatto, recentemente. Esatto. Mentre l'Inghilterra è un tantinello più su. Sì, qualche punto di vantaggio. Il Daily Telegraph ha scritto stamane: la reazione di Drogba è stata una vergogna che ha mostrato che razza di perdente sia rispetto alla dignità mostrata dai suoi compagni. E un altro quotidiano, che è l'Independent, adesso vado a cercare la testata, scrive di Drogba: un matto in ciabatte che deve essere squalificato dall'UEFA. Sì, è l'Independent, per dire che queste cose non passano inosservate, no? in un paese di quella civiltà. L'importante è questo, perché è stato una brutta scena, un brutto vedere. In questo caso nemmeno l'arbitraggio può servire da giustificazione, perché ci sono comunque dei doveri di comportamento che un atleta, non dico un campione, ma un atleta qualunque, ad ogni livello deve rispettare. E ieri sera il Chelsea, in particolare Drogba, non l'ha minimamente rispettato. Ho saputo che poi Hiddink in qualche modo ha corretto la sua dichiarazione, dicendo: io comunque non ho prove dell'eventuale complotto, quindi insomma, si è reso conto anche lui che gli era un po' scappata la frizione. Però insomma, il Chelsea dovrebbe riflettere anche su questo, dovrebbe riflettere soprattutto sugli errori che sono stati commessi una volta passato in vantaggio e una volta che gli avversari erano rimasti in 10. Certo, così come un arbitro del genere deve riflettere sugli errori suoi, e visti certi precedenti forse anche l'UEFA deve riflettere sulla reale dimensione, non fisica, in una semifinale di UEFA, ecco. Certo, sul vero calibro, no, di un arbitro di quel genere. E fin lì ci siamo. Leggo moltissimi commenti sul display, ne anticipo magari qualcuno. Omar da Bologna scrive: non solo gioco all'italiana dal Chelsea, ma al di là degli errori arbitrali oggettivi, ho visto troppi giocatori loro tuffarsi appena sfiorati. Io sono completamente d'accordo, perché non capisco come mai Drogba, fuori dall'area di rigore, non lo butti per terra nemmeno ad ammazzarlo, perché è una belva. E come arrivi in area di rigore, qualunque contatto lui sia giù. Ecco, questo per esempio è uno di quei dubbi, ma ce ne sono tantissimi. Sono arrivati in serata, ieri, in nottata, stamane, adesso leggo questi messaggi in tempo reale. C'è tempo più avanti, anche per i vostri interventi in diretta, ovviamente. Da te, Nicola, volevo sentire, alla luce del momento attuale del Manchester United, siamo al giorno 7 maggio, ne mancano 20 alla finale di Roma. Proiettandolo, anche tenendo conto degli impegni di campionato che ha nel frattempo, della squalifica di Fletcher, eccetera, che Manchester vedremo e che genere di partita sarà, visto che l'avversario si chiama Barcellona? Ecco, io credo che ieri sera da Stamford Bridge, più che il Barcellona vincitore del campo, sia uscito il Manchester United, perché il Manchester affronterà il Barcellona che non avrà questi giocatori: Marquez, il centrale difensivo, che già sostituiva Milito, il fratello dell'attaccante del Genoa, che praticamente il Barcellona quest'anno non aveva mai avuto. Mancherà Dani Alves sulla corsia di destra, e mancherà Abidal su quella di sinistra. Rientrerà solo Puyol, quindi il Barcellona si troverà a giocare con il Manchester senza tre quarti della difesa titolare. Per una squadra che per giunta deve affrontare un'altra fortissima sulle fasce, basta citare i nomi di Rooney quando si sposta, di Ronaldo, eventualmente del vecchio Giggs, giocare senza i due titolari sulle corsie per il Barcellona sarà a mio parere un grandissimo svantaggio, per cui penso che ieri sera a gioire davanti al televisore ci fosse soprattutto un vecchio signore scozzese recentemente nominato baronetto. Recentemente nominato baronetto. Ieri sera come si circoscrive Messi? Perché ieri sera Hiddink ha dato indubbiamente una lezione da questo punto di vista, non è neanche mai stato picchiato. Non ricordo un fallo su Messi o comunque un fallo intenzionale o cattivo, molta aggressività ma non di più. Poi non l'ha mai preso lo stesso, ma non è mai riuscito lui in compenso a superare poi il quinto avversario. Tu pensi che Ferguson dedicherà attenzioni particolari a lui e a Iniesta, che sono indubbiamente i due più pericolosi, anche se la mente vera è Xavi, oppure che il Manchester, conoscendolo, farà in ogni caso la sua partita e poi vediamo il Barça come sarà a cava? Dunque, io credo che il Manchester negli ultimi anni sia stata una squadra molto più attenta anche agli avversari rispetto ad un tempo. Eravamo abituati alla classica squadra britannica che andava in campo e cercava di imporre il suo gioco indipendente da chi aveva di fronte. Ultimamente invece c'è un'attenzione tattica che è molto migliorata. Io penso che il miglior lucchetto che il Manchester abbia per Messi sia Evra, il laterale sinistro che è capace di correre all'insegno di chiunque, velocissimo. Nella partita con l'Arsenal non ha fatto toccare palla a Walcott né all'andata né al ritorno. È chiaro che con Messi è un'altra cosa, però insomma Messi mi pare che con il Chelsea si sia arginato abbastanza da solo, per cui penso che questa sia l'attenzione che Ferguson dedicherà a Messi. Quanto a Iniesta, ecco, il problema è che il lucchetto non c'è, perché il lucchetto era Fletcher, che invece è stato espulso nella partita con l'Arsenal, quindi non ci sarà. Entrerà un vecchio signore di fronte al quale ci si alza in piedi, stiamo secondo sulla penti, che si chiama Paul Scholes, che però insomma ha 35 anni, quindi corre un po' meno di una volta. E allora qui potrebbe essere un piccolo problema per il Manchester. Ecco, è l'unico disagio che avrà il Manchester uscito dalla semifinale, questa squalifica di Fletcher, anche se leggevo oggi che il Manchester sta provando a presentare appello, facendo notare che Fletcher nell'azione del rigore su Fabregas ha toccato la palla, che l'intervento non era violento, ma insomma penso che sia un reclamo che abbia ben poche chance di essere accolto. Credo anch'io, Nicola, e non mancheranno in questi 20 giorni le occasioni per aggiornare il borsino del Manchester United in vista di questa finale indubbiamente di primissimo livello. Raramente, non so quante volte sia accaduto che la Coppa dei Campioni ha portato in finale le due squadre che tutti avremmo voluto vedere, anche se una ci è arrivata in maniera avventurosa e non del tutto meritata. Grazie Nicola Roggero. Grazie Gigi, grazie agli ascoltatori. E chiudiamo questo primo collegamento, vi ripeto, ce ne sarà un altro dopo le 14.30 per parlare del Barcellona. Adesso parliamo brevemente di qualche notizia. Beh, due gol di Ronaldo intanto nel Corinthians contro l'Atletico Paranense. Parliamo del Ronaldo vecchio, insomma del Ronaldo originario. Era una partita di Coppa del Brasile, un quarto di finale, e con questi due gol Ronaldo è arrivato a 10 in 13 partite, che insomma è pur sempre una discreta media. Poi c'è questa notizia di mercato che era arrivata lanciata la Lanza alle 12.45, è fatta per Diego la Juventus, l'accordo è stato sottoscritto a Brema in nottata, il club bianconero non ufficializza il trasferimento, mancano solo i dettagli, ma al Werder vanno 25 milioni e al giocatore un ingaggio di 3 milioni e mezzo per 4 anni. Poi in realtà su questa notizia data in maniera definitiva è intervenuto con una correzione di rotta il presidente della Juventus. Vi dicevo della frenata del presidente della Juventus Coboli Gigli a proposito della notizia data per ufficiale dall'ANSA dell'acquisto juventino di Diego. Sentiamo Coboli. Stiamo seguendolo e stiamo andando avanti nelle trattative, questo è sicuro. È un giocatore che ci interessa molto, quindi speriamo di riuscire a concludere. La cosa non è ancora conclusa. Noi ci consideriamo in fase di buone trattative, però lei mi insegna giustamente che nel mondo del calcio può succedere di tutto finché non ci sono le firme, i timbri e così via. Oh, Martina, credo, io ho letto il titolo dell'articolo, il titolo solo, credo che abbia detto che in un momento di economia difficile anche i grandissimi valori, anche i grattacieli, i monumenti, non so cosa paragonare a Buffon, possono scendere di valore. Per noi Buffon ha un valore inestimabile, è un grande campione e per noi rimane con noi. Ha ragione di voler vincere, assolutamente ragione, e noi la stiamo pensando come lui. E anche il fatto che andiamo a cercare grandi campioni, Diego e anche altri, dimostra che vogliamo strutturarci in maniera tale da essere ancora più competitivi l'anno prossimo. Un fedelissimo ascoltatore di Pavese, che si chiama Oliviero, ha appena mandato una mail perché ha scovato una curiosità non da poco. Diego, scrive Oliviero, quello del Werder ebbe la cittadinanza italiana 5 anni fa giurando al comune di Sant'Angelo Lodigiano. Se clicca sul link sottostante trova la notizia. Ho cliccato, ma continua Oliviero, prima allora costava una 20 di palloni nuovi o poco più, oggi una cifra da non dire. No, diciamola, l'ho anche detta prima, la cifra di oggi sono 25 milioni di euro. E dopodiché Oliviero si diletta in alcune considerazioni sulla lungimiranza dei nostri dirigenti calcistici. La notizia è vera, è un ritaglio del Corriere della Sera del 17 marzo 2004. E tra l'altro, in questa notizia di cronaca locale, si legge: da ieri Diego Ribas de Cunha, da Cunha, 19 anni, stella nascente del calcio brasiliano, considerato l'erede di Pelé, a ridaglie, nel senso che di erede di Pelé qualcuno l'abbiamo già sentito, è cittadino e residente di Sant'Angelo Lodigiano. La firma della carta d'identità è venuta poco dopo mezzogiorno, eccetera, eccetera. La cittadinanza italiana gli permetterà di essere considerato calciatore comunitario, favorendone così un eventuale passaggio a qualche club europeo. E lì si elencano Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, che lo tengono nel mirino insieme a altri club come Real, Barcellona, Tottenham e Bayern Monaco. E invece poi è finito al Werder, e da quei 20 palloni, questa è un'illazione del nostro amico ascoltatore, ma insomma comunque da una cifra ragionevole è lievitato fino a 25 milioni di euro, sicché adesso è buono per il nostro calcio, come certamente è diventato più buono, più appetibile Drogba da ieri sera, perché oltre ad essere molto forte è anche isterico, e quindi credo che sia un valore aggiunto in più. Silvio ha chiamato da Pescara, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Volevo dire che ieri in realtà il cattivo di turno, a parte l'arbitro, però secondo me è stato il regolamento che andrebbe cambiato. Cioè, com'è possibile premiare una squadra per il semplice fatto che segni un gol in trasferta e passi il turno, in questo caso il Barcellona? Secondo me ieri è finita il 90esimo, il 94esimo, si doveva continuare con i supplementari e gli eventuali calci di rigore. Avrebbe guadagnato lo spettacolo e la giustizia, perché secondo me è un regolamento superato, perché i presupposti che c'erano allora di premiare la squadra che segnava il gol in trasferta, perché giocare in trasferta era molto penalizzante, adesso non esiste più. Andrebbe cambiato il regolamento. Lei dice che non esiste più quel presupposto. Lei forse non ricorda la partita di Hiddink, cioè del Chelsea all'andata al Camp Nou. Io credo che esista ancora quel presupposto. Comunque, queste sono le regole. Se poi un giorno vorranno cambiarle, ogni tanto si leva qualche voce, ma molto, molto rada. Non mi sembra. La formula perfetta per evitare delle, diciamo, ingiustizie, o comunque per evitare dei verdetti non equi, come indubbiamente non è stato quello di ieri sera, non l'hanno ancora inventata. Se ci fosse, credo che l'applicherebbero. Giovanni, Palermo, buongiorno. Salve Garanzini. Dica. Volevo fare alcune considerazioni. Allora, ieri vedendo la partita, c'è stato un momento in cui quando il Barcellona, a dire che io tifavo per il Barcellona come tanti, quando è rimasto in 10 ho detto fra me adesso segnano, perché nel considerare i due scontri, una squadra come il Barcellona che ha un tremendo possesso palla, devi stare molto molto attento in difesa per non prendere il gol, anche se alla fine comunque ha dimostrato dei limiti, perché ci devono entrare con i passaggi forse in porta, questo probabilmente sarà un limite. Comunque questa è una considerazione. Un'altra sull'arbitro, che mi è sembrato un arbitro di personalità, perché un arbitro che riesce ad annullare, cioè a non dare un rigore netto, quello della mano mi riferisco, questo deve avere personalità per poter sopportare poi tutto quanto ci può essere ecco, di protesta. Arrivare a quei livelli, la personalità per arrivare a quei livelli è indispensabile, certamente. Poi un conto è la personalità, un conto sono errori di quella gravità, in cui tra l'altro non è stato aiutato, perché lei, come sa, sono collegati tra loro via radio, insomma via microfono. L'assistente che è più in linea di lui non può non vedere questa mano di Piquet che si apre. Quello è l'unico vero rigore della serata, il più netto comunque. In un paio di occasioni Drogba si è lasciato andare o si è buttato. Nel primo episodio, che tutti hanno detto essere calcio di rigore, io invece sposo la tesi di una ascoltatrice che ha scritto stamane, eccola, Laura Liberti, che dice: ragionavo su quella punizione del primo tempo reclamata come rigore dal Chelsea, ma non sarebbe stata piuttosto una punizione a due in area di cui si parlava qualche giorno fa in trasmissione? Probabilmente sbaglio, forse è solo che questa regola, che esiste ma non viene applicata, mi ha colpita tanto da volerla usare. Sì, io credo che se gli arbitri riscoprissero il calcio a due in area, che era nato per punire il fallo di ostruzione, cioè un tempo si punì, non è stato abolito il calcio a due, intendiamoci, ma è stato dimenticato nell'applicazione, insomma non è più prassi. Un tempo c'era, era in qualche caso un modo per lavarsene le mani, e cioè il Ponzio Pilato, che è incerto tra dare rigore o non darlo, se la cava con in presenza di certe casistiche. La casistica era quella dell'ostruzione. Quello di ieri sera mi è sembrato, effettivamente, ha ragione Laura, e non è la prima volta, che fosse un fallo di ostruzione, e cioè che punirlo con rigore forse fosse troppo, però spostare la palla fuori area in compenso è scorretto, cioè, oltre che sbagliato è grave, e quindi poteva essere questa una soluzione. Idris da Padova, buongiorno. Garanzini, 10 secondi. Secondo lei, chi ha vinto il pallone d'oro tra Cristiano Ronaldo e gli eredi di Maradona? Se vince il Barcellona o Manchester United? Grazie all'ascolto per radio. Idris, no. È un po' prestino, cioè questa tormentone in genere comincia verso novembre, no, comincia prima. Lei lo sta, però mi sembra che a maggio sia un portarsi avanti un po' eccessivo. In questo momento in Coppa è stato più decisivo certamente Cristiano Ronaldo di Messi. In assoluto nel corso della stagione Messi ha fatto molte più cose da grande campione rispetto a quello che ha fatto Cristiano Ronaldo. Siamo a maggio, tra l'altro c'è una finale di Coppa Campioni che molto inciderà su questo, che credo sarà alla fine uno spareggio, come dice lei, tra questi due, e poi in autunno ci saranno, da quando ricomincerà l'attività, si vedrà chi dei due aggiungerà altri consensi al proprio nome. Simone Viterbo. Buon pomeriggio. Dica. Io volevo dire, no, se lei crede, diciamo, prima o poi, se può scoppiare, diciamo, un Eurocalciopoli, diciamo, perché poi le intercettazioni pure tra New Garden, Juventus, queste cose qua c'erano, diciamo. Poi gli arbitri, se sono arbitri nel loro paese, anche in Europa sono così. Poi un'altra cosa, anche poi il regolamento, hanno fatto una deroga per far giocare il Milan, cioè era penalizzata, insomma fanno come gli pare le regole. E poi un'altra cosa che non capiamo noi, che la Champions League non è sport, è uno spettacolo, uno show, quindi le squadre come Chelsea, Inter sono destinate a non vincere, bisogna fare giocare bene perché devono vendere i diritti, lo spettacolo deve piacere alla gente, e quindi l'arbitro poi è lo stesso pure quello che ha arbitrato le partite dell'Inter pure sia l'anno scorso sia quest'anno quando sono usciti. Simone, per me mi sembra più spettacolo la Champions League, non uno sport, perché può giocare pure male il Chelsea, lo sport bisogna giocare bene, male, non dice, bisogna vincere o perdere. Simone, io non credo che, io vedo in genere dei grandi spettacoli qualitativi, In 98 casi su 100 vince il migliore, se il migliore nel senso che può essere il migliore magari fortunato come è stato ieri sera, però comunque il verdetto è equo o è credibile. Poi ci sono i casi limite, e quello di ieri sera indubbiamente è stato un caso limite. Credo sia stato l'arbitraggio più infelice nella storia recente della Champions League ad alto livello, cioè quarti, semifinali. Finale, da qui a questo esercizio di dietrologia globale, tornando indietro di anni e ripescando un repertorio insomma super sfruttato, mi sembra un salto un po' eccessivo. Mi scrive Giovanni Pietro Nigro: ieri sera, facendo zapping durante l'intervallo della partita, mi è apparso il faccione di Moggi sul canale eccetera. Fantastico, non so se il destino o Dio o chi per lui abbia voluto far accadere questa coincidenza. Moggi che commentava una partita arbitrata come quella di ieri sera mi ha fatto l'effetto di Jack lo squartatore che commenta un'autopsia. Scrive Davide Sabattini, invece ha scritto, e poi diamo la linea finalmente alla borsa perché sono già in ritardo, ha scritto: sono veramente dispiaciuto per la beffa che ha subito il Chelsea ieri sera. Premetto che inizialmente, da amante del bel calcio, speravo in una vittoria di Barcellona, ma per come sono andate le cose la ritengo immeritata. La storia del calcio è piena di partite vinte dalla squadra che meritava meno, e questo è anche il bello del calcio, ma quando il risultato è così ingiusto, la cosa si vive male. Ripeto, Davide Sabattini, mi pare che sia una sintesi la più condivisibile, insomma, di quelle che ho ascoltato e letto fino ad ora. Ma la non partita non giocata dagli inglesi all'andata se la sono dimenticata tutti? Scrive e domanda Lodovico. Il cambio di Hiddink, scrive Alberto da Vicenza, ma l'avesse fatto Trapattoni, ma che discorso. Certo, sono questa è la vera esterofilia. Quando si dice che c'è esterofilia, io credo che sia da qui che la si vede. L'unico merito del Barcellona è la scritta Unicef sulla maglia, scrive Fabio da Bergamo. Ma se Barcellona non segnava al 93esimo veniva contestato ugualmente l'arbitro, domanda Leonardo da Perugia. Sì, penso di sì. No, avrebbero fatto festa i giocatori del Chelsea evidentemente, e l'avrebbero lasciato perdere, ma sarebbe rimasto comunque un arbitraggio decisamente infelice, su questo non c'è dubbio. Anche i danni del Barcellona in un episodio, perché Anelka, se esistesse la prova TV, Anelka gli ammolli 3 giornate per l'autosgambetto che fa ingannando l'arbitro e facendo cacciare Abidal, tra l'altro. Lorenzo, provincia di Prato, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Volevo intervenire sempre sulla partita di ieri sera, e collegandomi un attimo a due interventi precedenti. Il primo, quello della punizione a due in area di rigore, che è un po' sparita. Sì. Volevo fare un'altra cosa, che in generale è un po' sparito dal regolamento attuale, dall'applicazione degli arbitri, il fallo di seconda. Io ne vedo sempre meno. Teoricamente la punizione a due in area di rigore dovrebbe punire un fallo di seconda, quindi non solo l'ostruzione ma anche il gioco pericoloso. Sì, il regolamento per la verità, io non è che lo ricordo a memoria, però dice più o meno che l'ostruzione deve essere senza contatto, no? Io però non insomma, nel calcio questa è una regola che è stata scritta quando a calcio si giocava leggermente in maniera più lenta, no, di adesso. Oggi tra la disponibilità del pallone, no? L'attimo di disponibilità del pallone e quello non, alla velocità di oggi il concetto di ostruzione andrebbe un tantinello cambiato. Io credo che in un caso come quello di ieri un calcio a due ci potrebbe anche stare, e forse sarebbe leggermente più salomonica. Se non è così, però, a rigore certamente non si sposta la palla fuori area, questo mai. Sì, sono d'accordo con lei. La seconda cosa che volevo notare è un discorso che riguarda un po' l'intervento di quell'ascoltatore che parlava del casa fuori che non vale più. Che non vale più come una volta, questa regola del doppio gol fuori casa, che non è più così strano vincere fuori casa. In realtà volevo far notare che il Camp Nou è lo stadio più largo del mondo. Se non erro, dovrebbe aver avuto anche una dispensa apposita dalla FIFA per poter essere regolare. Sì. Ed è chiaro che una squadra che gioca palla a terra con verticalizzazioni si trova a nozze in un campo del genere. Stamford Bridge, io vedendolo alla TV perché non ci sono mai stato, mi sembra qualcosa di più di un campetto da oratorio. No, non proprio così, però è stretto. però è stretto. E quindi una squadra, cioè, forse anche per questo, per spiegare come mai c'è stata questa differenza sì, di rendimento per Barcellona. No, no, ma è vero, però tenga conto che già il Bernabeu non è ampio come il Camp Nou, eppure è andato una lezione di calcio quattro giorni prima. Al Camp Nou all'andata comunque non è che l'avessero sfruttata poi questa ampiezza, no? L'hanno sfruttata certo per una superiorità, un possesso palla eccetera, ma poche occasioni create anche allora, quindi in realtà il Barcellona ha avuto in queste andate e ritorno col Chelsea, ha avuto secondo me lo stesso rendimento che ha avuto il Manchester nelle due partite con l'Inter, e cioè superiore come qualità, sì, però c'erano margini, e questi margini né l'Inter allora né il Chelsea adesso, in maniera molto più sfortunata e avventurosa, non sono riusciti a coglierli, perché il Barcellona al massimo dei giri, quello del Bernabeu dell'altra sera, no, non ce n'è, sinceramente. Vincenzo, provincia di Salerno, buongiorno. Dottore, buonasera, buongiorno a tutti. Dottore, lei mi ha bruciato l'intervento, perché mi riferivo al fallo di ostruzione, che credo, allora io sono un ex arbitro, ma se non ricordo male, il fallo di ostruzione, come giustamente lei diceva, non prevede il contatto. Il punto è che è un fallo del tutto anacronistico, perché il giocatore che supponiamo difende la palla deve trovarsi a distanza di gioco dal pallone. Se non si trova a distanza di gioco e si interpone tra la palla ed un avversario che si sta avvicinando, in quel momento nasce il fallo di ostruzione. Ma se il giocatore continua a correre e tocca il difensore che è davanti alla palla, a quel punto diventa fallo subito dal difensore, per cui è effettivamente una regola molto difficile da interpretare. Sì. Però se ne rimaniamo al regolamento, nel momento in cui c'è contatto non è più punizione in due. Tutto qua. Lo so, infatti questo è il punto. Però il concetto di ostruzione rimane, credo che invece di continuare a intorbidare le acque sul fuorigioco, continuando a renderlo sempre più di difficile applicazione e la sua interpretazione, se magari facessero un pensierino a questa vecchia regola che esiste tuttora nel regolamento, che è contemplata, quella del fallo a due in area, forse qualche problemino risolverebbero, anche se magari invece poi si complicherebbero la vita ancora di più. Ale scrive: difendersi non è una vergogna ma è un'arte, allora è meglio fare come il Real e prenderne sei. No, Ale, non è questo. Il Real non si è difeso, il Real era un'altra partita, ha segnato per primo, è andato in vantaggio, poi ha subito la rimonta del Barcellona, ma se si difendeva restava a meno 4 in classifica Real Madrid. Bisogna sempre anche vedere quali sono i presupposti di una partita. Allora, quella di ieri sera è che il Chelsea assolutamente non deve prendere gol in casa, ed è la prima condizio per provare a passare questo turno e andare in finale. Quella del Real l'altra sera era di battere il Barcellona in qualsiasi maniera, per battere gli avversari in genere bisogna provare ad andare nell'area altrui, perché sennò diventa dura. Giancarlo, Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Mi rifaccio sempre all'arbitraggio di ieri. Molto spesso adesso si dice, per quell'arbitraggio si usa il termine scarso. Io invece direi che quell'arbitro lì è un incompetente. E a perderci, cioè, di tutta questa cosa, perde l'UEFA, perché perde incredibilità. Una persona chiaramente sovrappeso che trotterella per tutta la partita. No, momento, mi scusi un attimo, sovrappeso, insomma, diciamo probabilmente sì, a parte il fatto che poi questi devono superare dei test, per cui sovrappeso non lo so. Dici, corpulento sì, sovrappeso non saprei. Trotterella per, no, mi scusi, trotterella per il campo, ovvero una fava, perché in ogni episodio lui era a 3 metri, o sbaglio? Non proprio, io l'ho visto a 5. Solo quando io l'ho visto correre quando gli correva dietro Ballack. Prendagli. Genere, io penso di non averla vista neanche nei tornei, certo, dei bar. Questo è stato. No, nei tornei dei bar ne ho viste e subite di peggio, non da arbitro, da giocatore che cercava di mettere pace. Non. Alla fine è stato assolutamente penoso. Nelle decisioni chiave che ha preso, l'arbitro era sempre diciamo entro i 10 metri. Sa cosa vuol dire? Sa cosa bisogna correre per essere a 10 metri dal punto del pallone nel calcio veloce di oggi? Non mi convince molto, ma non è questa. Secondo me l'enormità della bestialità che abbiamo visto ieri. A lei le iperboli non dispiacciono, Giancarlo? Sì, no, ma lo è. Juventino o interista, per sapere? Come? Juventino o interista, per curiosità mia? No, nessuno dei due. No, nessuno dei due. Strano, che in genere... Mi piace il calcio, le posso assicurare che mi piace il calcio. No, ma non è reato. Appunto perché mi piace il calcio, vedere una semifinale di Champions League arbitrata in questa maniera. Ma le dico, il confronto con l'arbitraggio della giornata precedente di Rosetti, che è stato perfetto, e rende ancora di più, perché faccio solo l'esempio, il rigore e l'espulsione che dà Rosetti, perfetta. Tutti i commentatori che stanno lì a dire ha toccato o non ha toccato la palla, non è importante se ha toccato o non ha toccato la palla resta lì, è ancora giocabile dopo il Fletcher. Su questo siamo d'accordo, Giancarlo. Però se non c'è qualcosa di determinante o di decisivo da dire, io la finirei qua col povero norvegese, no? Solo l'ultima cosa. Sì. È norvegese l'arbitraggio, non voglio essere roba, però normalmente io penso che, a parte le partite di Champions League, questo arbitra Tromso contro Rosenborg come la partita più importante. Secondo me una semifinale di Champions League nel quale c'è un inglese, una squadra inglese e una squadra spagnola, visto che il giorno prima aveva arbitrato un arbitro italiano, deve essere fatto arbitrare o da un tedesco o da un francese, non da un norvegese. Giancarlo, la metterò in contatto con la commissione arbitrale dell'UEFA, che probabilmente grazie a lei farà alcune riflessioni. Una stretta di mano vigorosa, ma forse anche un abbraccio a Raffaele, che scrive: siamo davvero fantastici noi italiani, in Gran Bretagna non parlano dell'arbitro e allora ci pensiamo noi a sostituirli. Gianluca da Asti, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Ma io, insomma, riprenderei un attimo l'arbitro, perché tutto sommato ha arbitrato bene. Beh, in un paio, adesso, esagerumane, come si dice, come si dice dalle sue parti. Ha ragione. Non passiamo da un eccesso all'altro, dai. No, ma insomma, però insomma, sull'espulsione forse ci stava un cartellino giallo, forse nemmeno. Ecco, però forse, ecco, sul fallo di mano. Io, ecco, ho presente Maldini, quando entra in area a marcare un avversario che porta le braccia dietro la schiena. Lì abbiamo un braccio lungo e cinque dita aperte. Io credo che in questo caso qui, se l'arbitro e il guardalinea non vedono, probabilmente qualcuno deve vedere, ecco, per una partita così importante. Ma è un errore gravissimo, la palla si smorza, perché poi quando la prendi con la mano, con la palla subisce, non si ferma, proprio la palla muore lì, ma come si fa? Quello è un errore di una gravità assoluta, dai, o lui o l'assistente, ma anche lui. Vabbè, poi... Ecco, mi viene in mente con Maldini che porta le braccia dietro, ecco. Ma non è l'unico, certo. E questo, ecco, il concetto di entrare in area, marcare un avversario e togliere volontariamente le braccia per evitare di colpirla con le mani, tutto lì, ecco. Gianluca, grazie. Dario fa un grande complimento, dice: lei vorrei avere la sua calma a volte nel rispondere anche ai miei clienti. Dario, questo è uno dei migliori complimenti che ho ricevuto in quasi 10 anni di questo programma e di questo scambio di opinioni con il pubblico. Non lo merito in realtà questo complimento, perché ogni tanto, e non così di rado, le staffe le perdo anch'io, poi cerco di perderle in maniera il più possibile inavvertibile, ma non sempre ci riesco. Ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 7 maggio 1978. A 36 anni, Giacinto Facchetti disputa la sua 475esima e ultima gara di Serie A. A San Siro l'Inter batte il Foggia per 2-1 con reti di Muraro e Scanziani, mentre il gol dei pugliesi è in realtà un'autorete realizzata proprio da Facchetti. Un paradosso per il primo difensore goleador del calcio italiano, autore di 59 centri nel massimo campionato. Ma l'episodio non rovina certamente l'ultima esibizione di uno dei campioni più amati dal pubblico nerazzurro, protagonista di due decenni di storia del calcio italiano. Facchetti aveva esordito in Serie A il 21 maggio del 1961, in occasione di un successo dell'Inter per 2-0 in casa della Roma. Niente ritratto del Barça da parte di Fabio Tavelli, perché è in diretta su Sky Sport 24. Sembrava ci fosse qualche minuto per intervenire, e invece no, ma insomma non mancherà il tempo da qui, ripeto, al 27 di maggio, a questa splendida finale annunciata peraltro tra Barcellona e Manchester United, per aggiornare la situazione e per provare a indovinare come potrà essere. Gaetano ha scritto: forse gliene hanno anche mezza rubacchiata al Chelsea, che meritava miglior fortuna, però ieri sera più dei due gran gol mi è rimasta negli occhi l'immagine di Guardiola che a due minuti dalla fine, sotto di un gol, abbraccia Dink allargando un sorriso incredibilmente spensierato. Uno così meritava la finale a prescindere. Beh, bella osservazione. Abbiamo noi un lungo frammento di Guardiola tratto dall'intervista di ieri sera a Sky, sentiamolo. Non so, devo pensare un po' alla sensazione che ce l'ho adesso. Arrivo venuto qua a prendere la palla, dall'inizio se tutto il mondo ha potuto vedere che abbiamo andato a cercare l'occasione del gol, poi il gol di Sien è stato spettacolare e poi loro tutto indietro è difficile. Una squadra fortissima fisicamente dove si aiutano tanto, è difficile trovare qualche situazione di gol. Ha avuto poche, ma alla fine diciamo che la costanza, il voler andare avanti e non mollare mai, lo abbiamo alla fine riuscito. Sempre per arrivare alla finale di una competizione come questa così importante sembra avere un po' di piccolissima fortuna, noi l'abbiamo avuto. Questa era la sintesi, mi pare molto onesta, da parte di Guardiola. Sentiamo Vincenzo, ha chiamato da Napoli. Buongiorno. Vincenzo, buongiorno. Vincenzo, si sentono scariche preoccupanti. Ultimo appello, Vincenzo. Sì, mi sente? Dica. Allora, volevo un attimo uscire dalla Champions, che per noi napoletani è ancora molto lontana. Oppure sì. Insomma, volevo un attimo sapere da lei cosa pensa che stia succedendo al mio Napoli. Mi riferisco ai calciatori che vogliono cambiare maglia, che non si presentano all'allenamento, che vengono definiti mercenari o anche peggio. Io sinceramente penso che la colpa non sia del tutto loro, ma soprattutto della società, che non ha interesse e voglia di investire, perché una società che voglia essere forte a un certo punto deve anche investire sui calciatori, cioè non accontentarli al 100%, però far sentire la sua forza, ecco. Io sono molto deluso dalla società, sinceramente, e non tanto dai calciatori. Comunque professionisti che possano scegliere loro dove andare o con chi andare. Sì, e come comportarsi magari anche però, Vincenzo. E dato che Zalaieta, dicevamo ieri che non è nuovo a questi colpi di testa, però non è nemmeno l'unico a Napoli che si concede di queste licenze, perché diciamo che a Napoli il calciatore si è sempre comportato in una maniera più spesso comportato in maniera più allegra che altrove, non tutti i calciatori ovviamente, alcuni proprio perché questo grande affetto popolare viene interpretato un po' come se non dico tutto, ma qualcosa di più fosse concesso. Entro certi limiti lo è, qualcuno questi limiti li varca, la società fa quello che può in questi casi, magari è poco, magari è troppo poco, però sono, credo, situazioni difficili che non promettono un grande futuro, oggettivamente, così viste da fuori. Maurizio Padova, buondì. Buongiorno, dottor Carantino. Dica. Io vorrei chiudere degnamente questa giornata parlando di un argomento nuovo, sì. L'arbitro di ieri sera. Benissimo. Io non credo assolutamente che in una semifinale di Champions League ci sia un arbitro incompetente o non preparato. La verità è un'altra, anche perché teniamo presente che il fallo di mano di Piquet c'era anche Guardiola, che era impossibile che non lo vedesse. Diciamo che c'era forse qualche voglia di avere due squadre non inglesi come l'anno scorso. Non parlo chiaramente di partite truccate o comprate, però ecco, se c'è la possibilità di dare fino alla fine una piccola speranza che il Barcellona pareggiasse, diciamo che ce l'hanno fatta. Certo, espellendo un giocatore del Barcellona per non aver commesso fallo. Io ne ho sentite oggi, come credo neanche tra gli ultra del Chelsea probabilmente avremo sentiti. Massimo da Roma, buongiorno. Massimo. Pronto? Buongiorno Massimo. Ah, buongiorno Don Canalzini, complimenti per la trasmissione. Sì, eccola. Sì, come sempre. Certo. Senta, no, io niente, solo una piccola considerazione, tifoso juventino ma grande estimatore del Barcellona, che devo ammettere ieri sera insomma ha giocato una delle peggiori partite di questa Champions. C'è dubbio. Però volevo anche sentire la sua opinione sul fatto che comunque, avendo giocato, credo, quest'anno una grande Champions Barcellona, anche con la partita di ieri meritasse questa finale, secondo me. Certo, meritava questa finale complessivamente, come la meritavano altri, però visto che si era trovata davanti il Chelsea, nel doppio confronto e soprattutto per quello che ha fatto e si è visto togliere ieri sera il Chelsea, insomma, se passava il Chelsea il verdetto era più equo. Grazie a tutti gli intervenuti, a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione, a Giornale Radio.